che ho conosciuto quando ci siamo conosciuti, un anno e mezzo fa. Un anno e mezzo fa, sì. Sì. E ci siamo conosciuti perché Elena mi ha scritto per chiedere un consiglio in ottica di un'eventuale pubblicazione. Mi ha detto: ho scritto questo libro, non so che cosa farne, vorrei pubblicarlo, quale strada posso seguire. Io allora, fino a pochi mesi fa, lavoravo come editore per New Book Edizioni, che ha editato poi effettivamente il libro, e quindi vabbè, ho consigliato la casa editrice per cui lavoravo. Ci siamo conosciuti così. Io vorrei parlare poco, ho impostato la serata come una sorta di intervista, mi sono preparato 7-8 domande, perché siete qua tutti per lei, quindi facciamo parlare lei anche se è un po' emozionata. Ieri aveva la febbre per l'emozione. Esatto. E poi, così vi preparate subito, ci sarà lo spazio per le domande del pubblico, che dovete fare, perché in quel momento è sempre imbarazzante, perché poi nessuno fa domande, quindi ve lo dico adesso, avete 40 minuti di tempo, per pensarci. Va bene. Allora, la prima domanda che ti faccio è: come è stato il rapporto con l'editore? Questa è stata la tua prima esperienza editoriale, e se è stato un po' come te l'aspettavi o se ti aspettavi dell'altro, innanzitutto. Ok, allora intanto grazie a tutti di essere qua, perché è una super emozione. E per quanto riguarda la domanda, il rapporto con l'editore è stato molto lineare rispetto a quello che mi aspettavo, perché io studio editoria e giornalismo, quindi in realtà tutto l'iter di pubblicazione dei libri lo conoscevo già. E quindi quello che mi aspettavo è arrivato effettivamente, ovvero il fatto di una revisione del libro piuttosto che della proposta della copertina o comunque le tempistiche. La gestione particolare che è stata fatta in modo efficiente, secondo me, è stato questo fatto di promozione poi dell'evento e delle presentazioni, per cui comunque la casa editrice è stata molto disponibile rispetto a produrre le locandine piuttosto che i segnalibri che poi sono lì, che è una cosa secondo me particolare che mi ha fatto molto piacere. E quindi in realtà è stato un iter che comunque conoscevo e si è riconfermato in un modo che mi ha permesso anche di vivere questa esperienza in modo piuttosto tranquillo e sentendomi comunque molto sicura, anche in un momento in cui non ero al mio top, nel senso che comunque quando poi è uscito il libro avevo avuto appena un incidente in macchina, quindi non era proprio un contesto in cui riuscivo a gestire tutto in un modo lucido, in un modo rilassato. Quindi il fatto che ci sia stata anche la casa editrice dietro mi ha permesso poi di realizzarlo come effettivamente è venuto fuori, come avrei voluto io. Fra l'altro qui c'è la persona, che la ragazza che faceva le foto, che ha curato, in realtà è stata lei a curare poi la pubblicazione del libro di Elena. Volevo farla parlare, ma un po' timida. E, no, allora, sempre per quanto riguarda un po' l'iter di pubblicazione, no? Io sinceramente non lo so, perché lavoravo all'interno di questa casa editrice, ma non avendo curato io il libro, ci sono stati dei cambiamenti rispetto al libro che hai consegnato, oppure no? E poi la copertina, come mai questa copertina, se, questo lo so, ma voi no, se l'hai scelta tu, oppure se sei andato in un altro modo, insomma. No, cambiamenti grandi non ce ne sono stati, mi è stato consigliato magari di aggiungere qualche parte al romanzo per un fatto di comprensione, perché ovviamente quando si scrive per se stessi e sembra tutto molto logico, molto lineare, molto comprensibile, e invece poi quando si legge da fuori non è mai così, e quindi mi sono stati fatti dei feedback rispetto a possibilità di completare proprio a livello argomentativo delle parti, in modo specifico nel chiarire come mai questo titolo e quindi renderlo comprensibile anche al lettore, che cosa significhi per me e cosa significasse all'interno del romanzo questo titolo. E per quanto riguarda la copertina, mi è stato chiesto precedentemente se avevo delle idee, ma io non ne avevo obiettivamente, quindi mi sono state fatte delle proposte diverse e alla fine io ho scelto questa. Attraverso tantissimi aiuti in realtà, perché ho chiesto penso almeno una trentina di persone quale fosse la migliore, la più evocativa, piuttosto che così, e ho fatto questa scelta alla fine perché mi sembra un pochino, cioè, la più intrigante di per sé e quella che comunque in un certo senso si distacca anche dal concetto di dolce perfetto, che mi è stata spesso fatta la domanda del ma quindi tu sei un'appassionata di cucina? E in realtà sì, ma no, non nel libro quantomeno. E quindi comunque questa copertina mi permetteva anche di distaccarsi un pochino dal concetto proprio della cucina, per cui c'era questo elemento della ciliegia che comunque indica la passione e il fatto del rosa dello sfondo che comunque richiama appunto il fatto che si tratti di un romanzo rosa. Io sono stata solo un po' pignola sui colori del titolo, perché ero lì che dicevo che siccome non si vedeva bene, quindi ho un po' rotto le balle, mi hanno fatto 3-4 proposte di colori diversi, però alla fine siamo arrivati a una... Sì, fra l'altro mi ricordo che anche in ufficio c'è stato un dibattito sulla questione del titolo, perché mi ricordo che io ad esempio avrei voluto cambiarlo, ma senza aver letto il libro, proprio per questo motivo, perché mi sembrava si avvicinasse molto alla cucina, no? Giustamente, però in realtà poi quando ho avanzato questa cosa Agnese, che stava lavorando sul libro, mi ha detto ma no, perché è il succo del libro, e poi si capisce. Però mi ricordo che anche noi abbiamo discusso sì. sul titolo, tanto più che poi la copertina un po' richiama anche la cucina, quindi sì. Però insomma è vero, questa anche domanda mi è stata fatta comunque alla fine, sì. Quindi volendo non no, è vero che però rispetto a tante cose tutte uguali che si vedono su questo tema, perché dell'amore ovviamente è già stato detto tutto, questa è una cosa un po' di novità. In realtà è stato scritto tutto di tutto, credo. No, il segreto, io dico sempre, sta nello scrivere in un modo che sembra che non sia mai stato scritto prima. Questa è forse l'originalità di fondo. Ma a parte questo, tu, volevo chiederti questo, da quanto scrivi? Tu hai 24. 24 anni, da quanto scrivi? È qualcosa che facevi fin da piccola? Sì, io scrivo. E poi come è nato questo romanzo? Sì, ho iniziato a scrivere quando avevo 10 anni, che parlare di scrivere è un pochino esagerato, penso, a quell'età. Invece di uscire con le amiche. Sì, ma io ho sempre studiato tantissimo e mi riprendevano perché non uscivo abbastanza e mi dicevano di staccarmi dai libri, quindi sono stata la tipica secchiona. Comunque, cioè, scrivo da quando ho 10 anni, ho sempre scritto, anche perché è sempre stato un po' il mio metodo di comunicazione, di sfogo, perché non ho mai trovato un grande riscontro nelle parole, probabilmente anche per come sono cresciuta, perché ho sempre fatto fatica molto ad esprimere quello che sentivo senza sentirmi sotto giudizio, in un certo senso. Parlando a parole, quindi nella mia emotività avevo bisogno di potermi sentire libera in un altro modo, ed è successo attraverso la scrittura, e alla fine i temi che mi hanno sempre mosso sono sempre stati quello dell'amore nelle diverse sfumature, crescendo e cambiando, e alla fine è il grande tema di fondo anche di questo romanzo, che è nato per l'appunto successivamente una delusione amorosa che per me è stata molto importante, perché ero appena arrivata in università, non avevo più i miei vicini, mi ero lasciata con il mio ex moroso in cui ero stata 3 anni, e quindi mi sono trovata molto sola ad affrontare una situazione in cui non la sentivo neanche di chiedere aiuto, e quindi di nuovo la scrittura mi è stata di aiuto, lei in realtà. Come quindi per molti. Hai scritto, scusa, ti interrompo, perché a me vengono le domande intanto in mente. Quindi tu hai sempre scritto per una funzione terapeutica della scrittura? Passami il termine. Sì, per una funzione terapeutica, ma sempre legata molto all'estetica, nel senso che io scrivendo ho sempre cercato di riuscire ad esprimere quello che volevo dire nella maniera più comunicativa possibile allo stesso tempo, quindi riuscire a cercare la parola giusta per quel concetto particolare, piuttosto che per quella sensazione particolare, per riuscire a trasmettere a quelle che all'epoca in realtà erano, cioè, dei lettori ipotetici che potevano anche non esistere mai, quello che sentivo io. Quindi è successa anche la stessa cosa qui, io ho sempre cioè la mia idea è che quando sto scrivendo e ho bisogno di una parola che è specifica, io so qual è proprio come se ce l'avessi sulla punta della lingua quando lo si dice, cioè per me è veramente così, io mi fermo anche magari 5 minuti perché io voglio quella parola lì e se non la trovo non vado avanti perché sennò il concetto non è più lo stesso. Comunque, tornando alla tua domanda, è nato anche in questo caso qui da una delusione amorosa per cui io sono stata parecchio male e diciamo che non essendo contenta di non poter sempre scegliere e programmare la mia vita, ho deciso che dovevo decidere io come finiva quella storia lì e ho scritto come finiva quella storia. No, su questa cosa sì, non so, mi ricollego, è molto bella questa cosa che dice della parola, no? C'è uno scrittore che mi piace un sacco, che tra l'altro è un italiano, che è Diego De Silva, un napoletano, non so se qualcuno di voi ha mai letto qualcosa, che dice ci sono, proprio così, ci sono cose che se non sono dette nel modo giusto sembrano stronzate. E credo che sia vero, cioè secondo me, così, lo dice lui, lo posso dire anch'io. E credo che sia proprio così. C'è un libro, anche secondo me straordinario, che è Esercizi di stile, che in Italia è tradotto da Umberto Eco, che non è un romanzo, non so se qualcuno di voi lo conosce. Lui ripete la stessa scena, credo un centinaio di volte, ma sempre con uno stile diverso, proprio per dimostrare in quanti modi si può dire la stessa cosa. E questo secondo me da scrittrice è un po' il concetto che diceva lei, è una cosa veramente straordinaria quello che si può fare con le parole, insomma. Ma per tornare, allora, se vuoi dire due parole sulla trama, se riesci a non svelare un granché, anche se forse il libro è uscito da un po', quindi l'avete già letto, ma se c'è qualcuno che non l'ha letto non anticipiamo, che cos'è la ricetta del dolce perfetto? E poi, collegato a questo, volevo chiederti, visto che il libro l'hai scritto 5 anni fa, se la ricetta del dolce perfetto per te è ancora questa, o se oggi la pensi in un modo diverso, e poi un'altra domanda che ti faccio dopo. Ok, spero di ricordarmele tutte perché non ho se mai di memoria. Perfetto. E, mi sono già dimenticata la prima. Se vuoi dire due parole sul romanzo. Allora, per quanto riguarda la trama, è un romanzo che si svolge tra Verona e Bolzano, che in realtà sono le mie città per l'appunto, e si tratta, come avrete capito, di un romanzo fortemente autobiografico, quantomeno nella prima parte. E la storia, essendo autobiografica, tratta di questa ragazza che si sposta per studiare a Verona e incontra questo ragazzo per cui prova subito una forte attrazione. Entrambi sono appena usciti da un rapporto che non è finito bene e quindi sono molto bloccati nel lasciarsi andare. Quindi diciamo che il libro si svolge in questa ricerca di un rapporto che riesca a soddisfare questo bisogno di libertà e di sentirsi slegati, quindi di riprendere, di ritrovare un po' se stessi, e dall'altra parte questa necessità comunque che si sente nella pancia quando si incontra una persona speciale di non lasciarla andare e quindi trovare un rapporto che coniughi entrambi questi bisogni, quindi quello di libertà e di forte attrazione a cui non si riesce a resistere certe volte e che poi verrà comunque attraverso vari eventi risolto, vabbè, insomma, lo scoprirete. La seconda domanda che non ti ricordi è che cos'è la ricetta del dolce perfetto? La ricetta del dolce perfetto per me è il fatto che ognuno di noi abbia un'anima gemella, in un certo senso, che si possono conoscere tantissime persone e ci possono piacere, ci si può trovare bene con tantissime persone e anche in realtà innamorarsi in modi differenti, ma che secondo me ci sia un'unica persona che ci completa veramente e che ci fa sentire completamente a casa in un modo per cui qualsiasi posto è quello giusto e tutto quello che c'è stato prima poi ha un senso grazie a questa persona qui, come se effettivamente tutto quello che c'è stato si completasse in un unico sentimento, in un unico cuore che poi diventa anche il nostro, quindi quello che per me per me è casa alla fine. E quindi la ricetta è quella, infatti nel libro viene descritta come proprio una ricetta inconscia che si riconosce di pancia, perché l'amore alla fine è irrazionalità, se ci si mette a pensare non si arriva mai da nessuna parte, quindi il concetto è proprio questo, di cuori che si incastrano e corpi che si intrecciano allo stesso tempo. E per me è ancora così, e io sono fortemente convinta che una persona ci sia per chiunque e che magari non la si troverà mai, io mi auguro di sì, e che però c'è da qualche parte. E non la definirei più così, nel senso che 5 anni fa l'avevo descritta comunque in modo molto roseo, chiaramente, avendo 20 anni, avevo una concezione differente, ho avuto delle esperienze che... Cioè, poi hai scoperto che l'amore fa schifo. No, ho scoperto che l'amore è ancora più bello di quanto mi aspettassi. E quindi per me questo concetto c'è ancora, ma lo esprimerei in un modo differente, che in realtà poi ci sarà in un libro che sto scrivendo, giusto per spoilerare la prossima, una delle prossime domande. Sì, perché lei ha voluto sapere le domande prima, per questo bisogna capire. Da giusta secchiona devo prepararmi. Quindi sì, questo concetto io ce l'ho ancora e ci credo forte, cioè in modo veramente forte, e però appunto non lo descriverei più così, in modo così soft, ma in un modo molto più completo, perché comunque poi crescendo hai delle consapevolezze diverse e vivi delle esperienze che sono molto più profonde a livello di sconvolgimenti negativi o positivi che siano, ma ti leghi in un modo molto differente poi le emozioni a quello che poi ti danno le persone, secondo me, se sai valorizzarlo. Allora adesso ti faccio una domanda che non sai. Perfetto. Il libro comincia con una fine in qualche modo, con due fini. Quello del rapporto della protagonista e quello del rapporto che aveva il protagonista prima della storia che poi viene raccontata all'interno del romanzo. Quindi comincia in un momento difficile per entrambi, di dolore. Allora la domanda è questa: tu come reagisci al dolore quando ti capita? A una sofferenza che non deve essere per forza in un rapporto di coppia, però non possiamo evitare che qualche volta qualcosa di brutto capiti, no? Sì. Come reagisci? Oddio, dipende dal contesto e da che tipo di sofferenza si tratta. E, questa risposta non vale. No, infatti volevo approfondirla. E, sicuramente reagisco in modo molto differente, in modo molto più maturo rispetto a quando ho scritto questo libro, quindi questa cosa è molto confortante. Per quanto riguarda la mia vita personale, sto imparando a lasciare andare, nel senso che ho sempre voluto controllare qualsiasi cosa nella mia vita, che sia l'organizzazione, piuttosto che il tempo, piuttosto che qualsiasi altra cosa, e questa ossessione quasi mi portava spesso a una sorta di nevrosi interna, per cui se le cose non andavano come volevo io, impazzivo. E in realtà sto imparando a capire che va bene lo stesso e che alla fine tutto torna e quindi è perfetto così. Quindi adesso, per quanto riguarda la mia vita personale, tendo a dire faccio 3 respiri profondi e con un francesismo vaffanculo va bene lo stesso. Per quanto riguarda il mio rapporto di coppia, diciamo che siamo cresciuti entrambi insieme e da soli e abbiamo trovato una buonissima comunicazione, per cui lui sa che io ogni tanto ho bisogno di dare di matto e di dirgli su per qualsiasi cosa, anche senza senso, mi lascia parlare e poi io quando sono pronta nel giro di un quarto d'ora torno e abbiamo chiarito e parliamo come delle persone normali. Quindi... Avete trovato la ricetta del dolce perfetto? Sì, penso di sì. Comunque è da affinare, però ci stiamo lavorando, sì. E allora il romanzo si svolge fra 2 città, Bolzano e Verona. Allora volevo chiederti perché, sappiamo che il libro, la prima parte del libro è autobiografica, ma allora volevo chiederti a quale delle 2 città, se ce n'è una, sei più legata e che cosa rappresenta. Non fare questa faccia, perché questa domanda la sapevi già. E quale delle due, cosa rappresenta per te una e cosa rappresenta per te l'altra? Allora, e quale delle 2 città vedi nel tuo futuro? Ok, non ce n'è una che mi senta più particolarmente legata piuttosto che un'altra, devo dire. Semplicemente perché hanno dei valori profondamente diversi, nel senso che Bolzano è molto famiglia per me, quindi è un posto in cui so di poter tornare quando ho bisogno di un rifugio e so che c'è tutto quello che è stato fondamentale per me per arrivare dove sono, ci sono i miei genitori, c'è tutto quello che io amo, oltre a tutte le amicizie che io ho stabilito, che continuo a far crescere e a tenere nel tempo nonostante gli anni. Quindi in un certo senso c'è un po' il mio passato che però resta nel mio presente e nel futuro. Verona è più casa per me adesso, cioè quando io penso a casa come mio stato d'anima interno, la sento più per Verona, ma perché penso di aver trovato la mia persona e questa persona mi fa sentire fortemente a casa e quindi per me casa è quella. Infatti se penso alla mia città del futuro, io vedo Verona adesso, per quanto io sia ancora profondamente, sono profondamente legata a Bolzano in qualsiasi momento della mia vita, però Verona la vedo più come mia possibilità per il futuro. Io ti faccio una domanda che mi sono segnato qui prima mentre dicevi una cosa. Prima parlavi dell'anima gemella, no? Tu sei fortemente convinta che esiste un'anima gemella. Sì. Allora io per provocazione ti chiedo, ce n'è una o ce ne sono tante secondo te? Voglio dire, che cosa brutta sto dicendo. Se tu fossi nata a Bari, probabilmente questo ragazzo non l'avresti mai conosciuto. Però probabilmente, chi lo sa, probabilmente avresti un'altra storia. Sì. Io credo che ci sia Dio. Adesso parlare di religione è sempre difficile, però nel senso, io non credo in Dio, credo nell'universo, quindi credo che comunque ci sia un disegno in cui in un certo senso siamo destinati. Credo che siamo liberi di scegliere, ma che in un certo senso questa cosa qui ci porti a delle cose più o meno già scritte che comunque hanno un significato lo stesso. Quindi ovviamente se fossi nata a Bari probabilmente non l'avrei mai conosciuto. Ah, pensavo mi stessi dicendo l'avrei conosciuto lo stesso. No, non credo, ma credo che non sarei io. Quindi penso che per la persona che sono e per quello che sto scegliendo adesso, la mia anima gemella sia Davide, che è la persona con cui io sto e che scelgo ogni giorno, e che di conseguenza per me ce ne sia una, perché se avessi dovuto essere un'altra persona non sarei qua dove sono adesso. Questa è una bella risposta, non me l'aspettavo. Ho scritto un libro, sono un po' profonda. E, ecco, una domanda sullo scrivere, no? E, intanto volevo chiederti se, oltre che avere la passione della scrittura, hai anche la passione della lettura. Se è un sì, volevo chiederti che cosa leggi. Ok. Sì, ho la passione per la lettura, purtroppo da 5 anni a questa parte leggo solo libri dell'università, come molti capiranno. Se potessi scegliere, sceglierei comunque dei romanzi, nel senso che io sono molto immersiva nella lettura, mi immedesimo moltissimo, quindi già io solo con i trailer dei film, che siano gialli o thriller, più o meno non dormo per una settimana. Quindi leggere dei libri di quel genere non potrei mai farlo. Quindi mi attengo molto al genere che alla fine scrivo. E non mi ricordo più l'altra domanda. No, basta. Non me la ricordo nemmeno io. Perfetto. Però ti no, anticipo. Se è un sì, che cosa leggi? Ok, perfetto. Non anticipa, te la faccio io. E, se leggi mentre scrivi. Ecco, perfetto. No, comunque. Cioè, non mentre scrivi. Sì. Non scrivi mentre stai scrivendo un romanzo, leggi anche qualcos'altro? Tendenzialmente scelgo di non leggere mentre scrivo per un fatto di riuscire a mantenere una mia autenticità e un mio stile di scrittura che sia legato alle mie emozioni e alla mia personalità. Io ho molto il timore, appunto, per il fatto che mi immergo molto nella lettura, di poi andare a confondere quello che sto leggendo con quello che poi sto scrivendo, sia che si tratti di stile che si tratti di avvenimenti, episodi raccontati nei romanzi. Quindi tendenzialmente quando scrivo tendo a non leggere, anche perché comunque leggo appunto dei romanzi o anche autori che scrivono in modo molto simile al mio, quindi la mia scelta tendenzialmente è di non farlo. Ma tu scrivi in maniera abbastanza costante? Oppure magari per 2 settimane scrivi, poi per un mese non scrivi? No, non sono costante. Cioè, faccio magari periodi di un mese in cui martello tutti i giorni e produco 5-6 testi piuttosto che 3-4 pagine di un libro e vado come un treno, e altri in cui se sono molto presa dalla vita tendo, cioè non riesco a dedicarmici perché faccio fatica più che altro a rimettermi in contatto con le mie emozioni e con le emozioni che poi voglio trasmettere, quindi magari sono così presa dagli avvenimenti che non riesco a farlo. Poi appunto ci sono periodi come quando ho scritto questo libro qui, che l'ho scritto in 2 settimane, in cui vado avanti e non dormo anche piuttosto, però se parto, parto. Ascolta, ti faccio le ultime 2 domande, poi è il vostro turno. Il libro è molto passionale, no? Sì. Ma che cosa hanno pensato i tuoi genitori quando l'hanno letto? Se volete, potete rispondere. No, beh, la mamma mi ha semplicemente detto che gli era piaciuto molto e gli avevo chiesto se poteva correggermelo. Poi in realtà l'ha un po' abbandonato lì tra una cosa e l'altra, però comunque lei mi ha sempre sostenuto sul fatto che comunque le piaceva un sacco come scrivevo e anche sugli argomenti, anche se mi ha sempre detto che era un pochino troppo precoce per quanto la riguardava. Invece papà è stato un bel episodio, nel senso che poi quando ha finito di leggerlo me l'ha consegnato e fa: guarda Eli, è bello, è scritto bene, ma avrei preferito non sapere che l'avevi scritto tu. E l'ultima domanda che ti volevo fare invece, tu prima hai anticipato che stai studiando editoria. Sì. Allora volevo chiederti se ti vedi in questo mondo nel tuo futuro, se ti piacerebbe lavorare con i libri, e in caso di risposta affermativa che cosa ti piacerebbe fare, oppure se hai in mente dell'altro anche. Sì, allora io sto finendo, cioè tra qualche mese mi laureo in magistrale editoria e giornalismo e poi ho in programma di fare il master in editoria applicata, quindi poi altri 6 mesi. Però mi piacerebbe molto lavorare in quest'ambito qui, soprattutto nell'ambito di revisione dei testi. O altrimenti, ambito su cui sono un po' indecisa e su cui sto anche scrivendo la tesi, lavorare nell'anoturismo, quindi nel mondo dei vini a livello di comunicazione proprio, quindi il rapporto con le cantine per promuovere poi la comunicazione interna alle cantine. E questa passione? Diciamo che papà è sempre stato uno che ha sempre bevuto e bevuto bene, che era la cosa importante. Voi non lo vedete, ma è contrariato. No, è imbarazzato. No, comunque ha sempre bevuto bene, quindi mi ha introdotto un po' al fatto di scegliere cosa bere abbinando al cibo. Poi diciamo che essendo andata a studiare in patria veneta non potevo che finire nell'alcolismo in un certo senso, quindi... E invece stai scrivendo un altro libro, hai anticipato prima, vuoi anticipare qualcosa? Il titolo? Sì, dai. No, è un libro su cui sto lavorando da un annetto abbondante, poi appunto per il discorso dell'incidente ho stoppato la scrittura perché ho avuto delle incombenze più importanti, chiaramente più urgenti, e sto riprendendo ultimamente, ma era quasi concluso, quindi mi augurerei che entro il 2020 esca. È una nuova espressione, sempre, chiaramente sarà sempre un romanzo e sempre tratterà sempre il tema dell'amore in un modo più profondo da un lato e un pochino più caldo dall'altra, giusto così in anticipo, e il titolo è Onda d'urto. Un titolo che dice tutto. Sì. Onda d'urto. Onda d'urto. Poi ho già programmato altri 2 seguiti, giusto così. Quindi sarà una trilogia. Ah, perché sarà una trilogia. Sì. Sarà una trilogia questo. Bocca al lupo. Grazie. E, avete pensato a un sacco di domande. La prima domanda farà la signora qui davanti. La nonna. Ah, la nonna. Io sono la nonna. Piacere. Sì, sono molto lieta di poter parlare qui in un contesto pubblico di mia nipote. sono commossa. Sì, sì, molto commossa. C'è un molto, applauso, molto, dai. Molto. La cosa che mi ha colpito, perché io ho letto quando era ancora in Fieri il romanzo, mi ha colpito la profondità, la ricerca di questa ragazza così giovane, perché aveva 19 anni quando l'ha scritto. E sono una persona che ama la lettura, lo scrivere, anch'io ho scritto e scrivo. Quindi diciamo che questa passione la capisco fino in fondo. La cosa, dicevo, che mi ha colpito moltissimo nel leggere è stata, ho avvertito una ricerca, uno sforzo nell'esprimere concetti, emozioni, sensazioni molto intense, molto più di quanto io non mi sarei aspettata. Chiedo scusa. E poi quello che ho concluso come sensazione finale è stata una impressione precisa che in questo romanzo lei cercasse di distinguere e di rendere noto e evidente la differenza, se vogliamo, tra quella che può essere un'attrazione fisica e un sentimento vero, profondo, completo, perché negli approcci c'è sempre una parte così molto superficiale, direi, no? L'attrazione non sai mai come sia, però quando tu approfondisci il rapporto scopri cose meravigliose, e specialmente se hai una grande sensibilità scopri mondi straordinari. Ecco, io questo ho riscontrato in Elena. Che bello. Volontari? L'ho detto un'ora fa, eh. Se no scelgo io. No, poverino. Allora, hai parlato della questione della libertà, come mi sembrava, non so se ho capito bene, libertà nel momento in cui è finito un legame, e il fatto invece di ritornare appunto a ricostruire, diciamo, un altro tipo di legame. Allora volevo chiedere che cos'è per te la libertà in un rapporto d'amore. Allora, stai brutta. No, in realtà è molto bella, secondo me. Difficile. Allora, secondo me in un rapporto d'amore la libertà è il fatto di riuscire a lasciare gli spazi giusti, nel senso che io conosco amiche che hanno dei rapporti in cui ci si chiede i permessi piuttosto che altro. Secondo me la libertà sta nel fatto di sentirsi liberi dentro, per se stessi, di riuscire, cioè di fare quello che si vuole, però allo stesso tempo parlandone con l'altro in un modo assolutamente limpido. Quindi essere in grado reciprocamente di esprimere quando una cosa non va bene e magari fa male, da un lato, per cui non è completamente coerente rispetto a quello che vorremmo sentire noi, e scegliere come agire di conseguenza dall'altra parte. Quindi poter fare in modo personale delle valutazioni rispetto a una scelta piuttosto che un'altra, rispetto a prendersi uno spazio di un certo tipo piuttosto che un altro, però scegliere sentendosi liberi, sapendo cosa può sentire l'altra persona, ma scegliere per se stessi alla fine. Quindi dare un giusto valore al rapporto, ma non dimenticarsi mai di se stessi. Grazie. Grazie a te. Dai Agnese, passi il microfono tu. Io devo solo passare il microfono. Quante domande vuoi? Almeno 6-7 domande. No, se ci sono, la mamma potrebbe fare una domanda. La ragazza con la maglia bianca potrebbe fare una domanda? No, beh, se non ci sono domande, male però. Veramente nessuno? Ce l'ho nemmeno io una domanda. E niente, va bene, allora chiudiamo. Non so se qualcuno deve ancora acquistare la copia. Devi fare la lettura? Devo fare la lettura. Ah, niente, devi fare la lettura, vero? Vieni, vieni. Sì, è vero, abbiamo deciso di chiudere con una lettura dove si spiega appunto il titolo, quindi dove si esprime questo concetto della ricerca del dolce perfetto. Allora, sì. Beh, no, so che... La lettura parla appunto di come Elena da bambina, cioè in realtà la protagonista di quella, la protagonista, dalla mamma riceve una spiegazione su cosa sia l'amore e come si possa ricercare l'amore e quindi la ricetta dell'amore perfetto, del dolce perfetto. Allora, quindi vi leggo. Beh, sì, questo, sì. Posso dire? Grazie. Sai, sole, l'affetto è un po' come un dolce. Ti piace, lo gusti, ti riempie il bacino e ti rende felice. Ma l'amore, quello vero, qualsiasi forma abbia, è un po' come un dolce perfetto. È quello che sceglieresti sempre e comunque, al di là di tutto, anche se potessi avere qualsiasi altro dolce del mondo. Perché quel dolce lì non è solo il tuo dolce preferito, ma è proprio il tuo dolce preferito, quello che ti completa, quello che sceglieresti di mangiare tutte le mattine a colazione, perché ti migliora la giornata, perché ti permette di assaporare la vita a pieno, perché ti fa sorridere il cuore, perché altrimenti nulla sarebbe più lo stesso. E la cosa meravigliosa è che la ricetta del dolce perfetto, la tua ricetta del dolce perfetto, la conosci solo tu ed è solo e intimamente tua. Forse non la conosci a livello conscio, non ne sapresti elencare gli ingredienti, ma li sai, li senti, li vivi, li gusti e ti fanno sentire viva. Ecco, questo è l'amore vero, una ricetta perfetta, solo tua, per fare un dolce che gusti e vivi intimamente. Il mio dolce perfetto è papà, una torta al cioccolato fondente, croccante fuori, ma morbida e friabile dentro, con un pizzico di sale a smorzare il tutto. Ed eccolo qui, dolce e orsacchiotto e allo stesso tempo puntiglioso e rompiscatole, un po' istrice come te. Qui, dopo, sono le conclusioni che trae Sole, e dice: forse l'amore alla fine è proprio questo, penso Sole. Una combinazione perfetta di ingredienti, solo nostra, intima, che presi singolarmente sono buoni, sì, ma non dicono poi molto, ma messi assieme, se sai come abbinarli, come impastarli, cuocerli e prendertene cura, è proprio lì che avviene l'incantesimo. Scusatemi, l'incastro unico, la ricetta perfetta in grado di dar vita al tuo dolce perfetto, che solo il tuo cuore saprà riconoscere. Mischiare la pelle, combinare i profumi, incastrare le labbra in un abbraccio che ha il sapore di casa.